Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È un episodio che ha suscitato grandi polemiche. Mi riferisco alla decisione di un liceo romano, il liceo storico importante Mamiani, di porre sul libretto delle giustificazioni, là dove devono firmare i genitori, la dicitura genitore 1, genitore 2, in sostituzione di madre e padre. La possiamo vedere cerchiato, genitore 1, genitore 2. Io sono un papà, ho due bimbi e papà rimarrò, non sono genitore 1, 2, 3, 4 e 5. Si chiederà: e chi è il genitore 1 e il genitore 2? Allora, per non litigare, un anno l'uomo fa il genitore 1 e la donna, l'altro anno lo fa viceversa. Torna alla ribalta una discussione che sembrava ormai superata dagli eventi, dai fatti. Se ne parlava molto un annetto fa circa. La questione è genitore 1 e genitore 2. L'iniziativa nasce dalla Francia, di quelle iperpoliticamente super correttissime, naturalmente piace a tutti, anche alle nostre latitudini, o piace a molti. Molti documenti con valore legale in Francia saranno sostituiti, dove c'è scritto paternità e maternità, da genitore 1 e genitore 2. Questo accade anche negli Stati Uniti. Molte amministrazioni in Italia hanno deciso, tra cui il Comune di Milano, di fare loro questa iniziativa. Qual è il senso? Non discriminare i ragazzi che hanno entrambi i genitori dello stesso genere o altre situazioni che naturalmente potrebbero avere delle difficoltà nello scrivere mamma e papà, quando o non c'è la mamma o non c'è il papà, o ci sono due papà o ci sono due mamme, o non si sa bene cosa ci sia. Ritorno alla ribalta perché una mamma ha voluto fare un gesto clamoroso. La signora Barbara, lascia la sua intervista al giornale, abbiamo cercato di rintracciarla, ma col suo nome e il suo cognome, su Facebook ce ne stanno talmente tante, abbiamo desistito. Ma tanto quello che doveva dire l'ha scritto nei social network. Oggi, visto la politica, si fa a suon di Twitter, visto che ciò che si scrive su Facebook ha valore di realtà, anche lei ha capito come funziona il sistema. Quando ha avuto in mano il modulo in cui doveva scrivere genitore 1 e genitore 2, ha cancellato firma genitore 1, ci ha scritto mamma mettendo la sua firma. Ha fatto lo screenshot con il suo telefonino del modulo in cui dice lei, che si chiama Barbara Bianchi, è la mamma e non il genitore 1, e l'ha pubblicato su Facebook. E naturalmente questo ha creato subito un grande luogo di discussione, oggetto di discussione in rete, riportando all'attualità questo problema. Dice: io mamma, sono la mamma, non il genitore 1, capito sindaco Pisapia, con l'hashtag Pisapia. Questo ha scritto Barbara e quindi tutti stanno riflettendo su questo fatto. Voi come la pensate? Pensate che in effetti è trascurabile il fatto di rivendicare la propria appartenenza alla stirpe delle mamme, quindi chi se ne frega firme genitore 1, genitore 2, eviti un problema a chi potrebbe avere un problema nell'essere identificato in mamma e papà e tiri a campare? Oppure è giusto in questo momento di difficoltà, di affermazione di principi, di liquefazione di ogni identità, no, riaffermare il principio: la mamma c'è, di mamma ce n'è una sola, i figli sono piezze core, quindi io sono la mamma e quindi sindaco devo scrivere mamma, perché di mamma ce n'è una sola. Oggi leggo nelle cronache di una mamma che ha sgozzato il figlio perché il marito le mette alle corna, quindi l'accezione materna ha uno spettro vastissimo, ma in questo caso la vera mamma che porta il bambino a scuola deve essere mamma. Come la pensate? 800 24 00 24. In Francia, per evitare che i figli adottivi delle coppie gay si sentano a disagio, sono stati aboliti dalla terminologia ufficiale i vocaboli padre e madre. Per protestare contro l'approvazione dell'atto che propone la sostituzione dei termini madre e padre con quelli più politicamente corretti di genitore 1 e genitore 2 negli istituti scolastici del municipio. (800) 24 0024, siete d'accordo con mamma Barbara che ha fatto questo gesto intrepido e molto orientato web 2.0, mettendo su Facebook la foto del modulo in cui cancella l'orrenda discriminatoria classificazione genitore 1 e ci scrive sotto mamma? Io sono mamma, Barbara Bianchi sono mamma, caro sindaco Pisapia, nessuno mi toglierà questa qualifica di mamma. Oppure pensate, ma poteva starsene tranquilla, scriverci il nome, via, cosa succede, cosa cambia. Solo il fatto di pensare che magari una coppia di due mamme, una coppia di due papà, grazie a quel modulo, avrà più facile la loro già non facile vita, quindi che ci si frega, passa sopra. Oppure, ma... basta un modulo con scritto genitore 1 per limitare la propria dignità materna o paterna. Vuoi ti dire come la penso io? Ma io manco, nemmeno mi sarei accorto della qualifica genitore 1 o genitore 2. Se devo firmare un modulo per una qualsiasi cosa scolastica, l'avrei firmato e avrei veramente tirato a campare. Gianetto e Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Avvocato Gassani, presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Quanto dal tuo osservatorio, avvocato Gassani, hai visto mutare i rapporti nelle famiglie in contrasto per questa definizione genitore 1, genitore 2? E qual è poi il tuo parere in realtà sul gesto della mamma? Ma io penso che il nostro paese sia un paese fondamentalmente tradizionalista. E i dati lo dimostrano, nel 99,99% dei casi le famiglie, i figli hanno un padre e una madre anche quando c'è la separazione e il divorzio, perché con l'affidamento condiviso c'è bisogno della firma di entrambi anche per iscrivere i figli a scuola. Per cui noi per una minoranza ristrettissima stiamo mettendo in discussione forse l'ultimo baluardo di certezza nel nostro paese, che è la maternità. Quindi la mamma non è più certa, ormai è un genitore uno. Da questo punto di vista, francamente, pur comprendendo lo sforzo del Comune di Milano di avvicinarci all'Europa, francamente non comprendo né la tempistica né modalità in cui sono avvenute poi certe riforme e certi messaggi. Il comune sentire degli italiani non è assolutamente conforme, almeno nella maggioranza dei casi, a quello che vuole il sindaco di Milano. Ci sarebbe la possibilità tranquillamente di fare dei moduli in cui si dica la verità, padre, madre, oppure chi fa le veci, o genitori adottivi. Cioè non vedo il problema, perché dobbiamo eliminare padre e madre in favore di una rivoluzione che ancora non c'è una legge che preveda la possibilità per le coppie di fatto omosessuali di adottare. Stiamo parlando del nulla, mi sembra una vera e propria provocazione. Parliamone, discutiamone, magari si farà una legge, magari la gente si abituerà, ma non credo che sia questo il modo di elevare l'asticella culturale di un paese e abituarlo a questo tipo di trend quando ancora non se ne è parlato. Quindi si potrebbe tranquillamente fare un modulo, cioè aggiungere altre due caselle, si mette papà, mamma o altra cosa, che ne so, o altro, padre e madre, oppure chi ne fa le veci. Insomma, voglio dire, ma per quale motivo dobbiamo mortificare forse l'unica certezza che abbiamo, che è quella della genitorialità, e in favore di rivoluzioni culturali imposte, non democraticamente, ma imposte sotto... Quindi mamma Barbara, per te, avvocato Gassani, diciamo, è una sorta di eroina che ha avuto il coraggio finalmente di sfondare il velo dell'ipocrisia, dell'apparenza, del voler essere per forza allineati con tutte le regole. Infatti oggi giustamente ottiene il suo consenso in rete, ha avuto il coraggio di dire io sono mamma. Sì, sarà un'eroina, ma credo che sia il buon senso della persona comune, la persona che va in una scuola per scrivere il figlio e vede genitore 1, genitore 2. Ma che roba è? Ma questo è il progressismo? Dice non pigliatemi per il culo, via, almeno su questo. Il progressismo è dialogo, è condivisione, è ragionamento, è crescita, ma non è un modulo. Non è da un modulo che puoi cambiare la cultura di un popolo. Secondo me forse il modulo deve contenere la verità. Se due persone dello stesso sesso un domani potranno adottare, ben venga anche questa rivoluzione, ma si spieghi che si tratta di Pasquale e Filippo e basta. Che sono, diciamo, i gestori di un figlio, una è la madre biologica e l'altra è la compagna, la madre biologica, esatto, o se sono due padri, uno è il padre biologico e l'altro è il compagno del padre. Basta, ma perché, per quale motivo noi per rivendicare dei diritti dobbiamo calpestarne altri? Ma non possiamo vivere in maniera molto più armoniosa e dire la verità invece di trincerarsi dietro questi problemi? Mi sembra un'ottima idea quella che dice l'avvocato Gassani, cioè non ci prendiamo in giro, non è che dare possibilità di espressione a diritti di nuove categorie che emergono oggi, non soffocare quelli di quelle precedenti, basta aggiungere, siamo in epoca digitale, basta aggiungere, non esistono schemi fissi, due caselline in un modulo in cui, come suggerisce l'avvocato Gassani, si mette papà e mamma nel caso ci fossero, e se non ci sono nell'ordine, diciamo, tradizionale dei termini, ci si metta quello che è, una è la madre biologica e l'altra è la compagna, la madre biologica. Ma poi volevo premettere l'ultima cosa, io mi sto battendo con la mia associazione per per il riconoscimento delle coppie di fatto. Cioè il sessismo deve essere qualcosa che devi spiegare nei quartieri, nelle aule istituzionali. Ci stiamo battendo per questo, ma stiamo mescolando due situazioni completamente diverse. Un conto è il riconoscimento delle coppie di fatto, sessuali o omosessuali, e di questo io mi batterò fino alla fine. E un conto parlare di altro. Cioè parlare di altro, per cui adesso in questo relativismo, in questo modo di affrontare le cose, diciamo che con un modulino buonista ci si mette la coscienza a posto e non si affronta nemmeno il rischio del dissenso nell'affrontare posizioni dure, concrete, realistiche e anche molto attuali, come quella di dire riconosciamo comunque le coppie di fatto. Fermo un attimo Gassani, abbiamo gli ascoltatori. Massimo. Sì, buongiorno. Io vorrei dire che sono completamente d'accordo con l'avvocato e sposo in pieno la sua tesi, avrei voluto dire le stesse cose, però la rafforzerei con un altro punto. Io faccio lo psicologo, insegno filosofia, ho fatto venire le coppie di fatto, le ho fatte venire a parlare alle assemblee, le ho difese, però continuo ad avere grossissimi dubbi sull'aspetto dell'adozione, mentre per quanto riguarda la solidarietà reciproca non ho veramente alcun dubbio. Vabbè, questo è un punto di vista su cui si può discutere, poi sul modulo diciamo mi sembra che la posizione... Ma il modulo dà per presupposto qualcosa che non c'è e che è ancora aperto alla discussione in Italia. Non possiamo presupporre che l'adozione verrà introdotta, l'adozione per le coppie omosessuali. È un presupporre qualcosa che la... Quindi lei dice, Massimo, già da per scontato qualcosa comunque sul tavolo della discussione, questo? E certo, e che è assai problematico sul piano psicologico, sul piano simbolico. Vabbè, questo poi sono, sì, questo sono punti di vista, adesso è un'altra trasmissione. Certo. Poi dice giustamente, Massimo, dice date già per scontato qualcosa che ancora va discusso, nel bene e nel male va discusso. Fabrizio, poi sentiamo Gassani come ci risponde. Fabrizio. Io volevo dire più o meno la cosa che dicevate prima, di aggiungere le caselle. Volevo dire un'altra cosa che non c'entra con questo qua, ma che nel merito è più o meno uguale. Si ricorda quando volevano togliere i crocifissi dalle scuole? Sì. Ma piuttosto che togliere il mio crocifisso, mettete il vostro simbolo di fianco al mio crocifisso, così salviamo capre e cavoli. Ma perché c'è sempre bisogno di annullare uno a favore di un altro? Sì, in effetti visto c'ha quattro pareti, uno ci mette il crocifisso, ci mette Buddha, ci mette Zoroastro, ci mette chi vuole, ci mette, che ne so, quello che gli pare, il mago Telma, secondo, io ci metterei tutti, così almeno ognuno c'ha il suo. Melog, cronache meridiane. riprendiamo a parlare dell'atto della mamma che ha scritto, Barbara ha scritto sul modulo del sindaco Pisapia: io sono mamma e non sono genitore 1. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti tanto per la trasmissione. Sì, ma chiamano soltanto papà, non so perché le mamme non chiamano stamattina, sono ammutolite di fronte all'esempio della mamma Barbara o non hanno sono nulla basite, da dire? Sono basite da questo fatto di scrivere genitore 1 e basite. Genitore 2. Ci sono argomenti oggi che meritano basitaggine molto più preponderanti secondo me. Comunque andiamo, qual è il suo punto di vista? Ma magari alle volte sono dalle piccole cose che si fanno le grandi rivoluzioni, anche in senso negativo. E io dico che la mamma, non mi ricordo il nome, che Barbara. Ha scritto Barbara, che ha scritto sono mamma e non genitore uno, è un piccolo eroe. È una piccola eroe, veramente. È un gesto... Gli eroi sono quelli che muoiono, chi rimane vivo non è eroe. No, anche chi vive, no. È stata brava, ha usato bene, come sono tutti bravi, Renzi, Grillo e via dicendo, usare i social media. Oggi è all'onore della cronaca perché ha cancellato, ha detto sindaco, io sono mamma e nessuno mi toglierà questo diritto. Per quello di usare il social network va bene, ma è il gesto secondo me che è molto importante. Adesso, la parola mamma è bellissima, non capisco perché dobbiamo cancellarla. Io sono papà e è bellissimo anche papà, però la parola mamma è una cosa incredibile. Io sono idea, guardi, adesso mi procurò gli strali di tutto il mondo, che da una certa età in poi se non la cancella vive meglio, però questo non c'entra nulla. Prego, prego. Va bene, ma cioè viviamo già in una società un po' così, diciamo, dove... come si dice, gli affetti così sono quasi guardati male, due persone che ma che è un modulo a stabilire un affetto, mi scusi, ma un modulo del comune di Milano, di Canicattì stabilisce la realtà di un affetto, ma nemmeno anni di convivenza, nemmeno vincoli matrimoniali, nemmeno sacre unioni, nemmeno leggi riescono a sancire l'eternità di un affetto e basta un modulo. Comunque, questo è il suo punto di vista. Chiama Alberto Bignardi, che è presidente dell'Arcigay di Modena, e ci ha chiamato e noi diamo parola anche a lui. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Il suo punto di vista. Sono Alberto, sono presidente di un Arcigay e quindi come zona insomma riesco a vedere le realtà che ci sono. E quello chiamavo più che altro per dire che tutti questi signori che si vantano di dire che è una realtà che non esiste, esiste in realtà, esiste come? Quello che non esiste è una protezione legislativa, nel senso che noi abbiamo famiglia arcobaleno, rete genitori Rainbow, cioè abbiamo una serie di realtà familiari, omogenitoriali, cioè dove ci sono due mamme, due papà, dove questo esiste già, cioè i bambini ci sono, quindi non si tratta di un'invenzione che dicono una realtà che non esiste, non, il legislatore che è vecchio, maschio ed eterosessuale, è ovvio che non tratta questo argomento. Però quindi diciamo la soluzione che proponeva l'avvocato Gassani, che ci ascolta adesso interverrà, di dire vabbè facciamo contenti tutti, il riconoscimento di una realtà abbastanza nuova per il nostro paese non deve negare un'altra realtà, quindi mettiamo quattro caselle in questo modulo, ognuno metterà quello che a lui compete. Infatti quello che si propone di solito è di mettere la casella genitore, non genitore 1 e 2 che è un po' un'invenzione, insomma genitore genericamente, poi dopo, anche perché nella realtà dei fatti quando queste famiglie arrivano a scuola il personale, perlomeno nella mia zona, quindi parliamo di Modena e Reggio Emilia, è formato, cioè ci sono già dei corsi per i professori che non devono discriminare, che devono stare attenti appunto al fatto che un ragazzino o una ragazzina che hanno bisogno di essere insomma un occhio in più riguardo al fatto di non essere discriminati sotto quel punto di vista. E questo diciamo nella vostra regione perlomeno c'è attenzione, è un percorso. C'è già un po' di attenzione, sì, poi non tutte le città hanno attivato questa famosa casellina genitore rispetto a madre e padre, però insomma quello che volevo dire è che è una realtà che esiste, quindi tutti. Ecco, ma come si comporta una coppia diciamo di genitori dello stesso genere quando ha un modulo, tanto per capire, ha un modulo vecchio stile con padre e madre, cosa fanno? Come di solito vanno a parlare col dirigente scolastico, chiedono un pre-incontro dove gli spiegano la situazione, di solito il dirigente scolastico, che è comprensivo, dice che attiverà tutto il necessario per far capire. Poi è ovvio che nello Stato italiano una solo delle due è una madre biologica, quindi l'altro è un genitore che può essere come uno zio o un amico che viene segnalato, che può andare a ritirare. Sì, una coppia di donne è comprensibile, una coppia di maschi però non c'è la madre. È un pochino più dura. E come però fate? E come si fa? Ma no, si va a parlare col dirigente scolastico che deve capire ovviamente la situazione. E quindi viene adattata. Non esiste una possibilità di fare una modulistica che preveda tutte le circostanze? Questo lo deve prevedere il comune, quindi di volta in volta le varie appunto politiche della zona che vanno stimolate dal registro dell'Unione Civili fino a questo, che a Bologna ad esempio c'è già. Allora fermiamoci un attimo, Alfia, resti in linea però, Alfia, velocemente Alfia, sì. Poi sentiamo. Alfia, intanto sì. Buongiorno sì. A chi ci sente, buongiorno a voi sì. Dello staff. Io non voglio sembrare un po' antica, come dico. Sì, vada al punto, lo dica il suo parere, senza premesse. Il mio parere è che Barbara ha ragionissimo, io ho cresciuto tre figli da sola, sono la mamma a tutti gli effetti. Non discrimino, non do giudizi su matrimoni gay e tutto il resto, ma quello che fanno nella stanza da letto è solo loro. Non possono sovvertire l'ordine. Ma che c'entra la stanza a letto, scusi? Della famiglia. Ma che c'entra la stanza a letto, scusi signora? Ma io a me non viene. Mi faccia finire, poi la faccio parlare. Dico, come a me non viene nemmeno in mente di pensare cosa ha fatto lei nella stanza a letto per avere tre figli, e a lei viene in mente cosa fanno nella stanza a letto le altre cose? Ma naturale per lei. L'ordine della famiglia, se poi mettiamo su famiglia, c'è la mamma e c'è il papà. Assolutamente. Vabbè, questo è il suo punto di vista. Nipote di 14 anni. Sì, ma non si arrabbi, signora. Nessuno toglierà mai le mamme il diritto di essere madre. Sì, ma tranquilla. Abbiamo capito il suo punto. È un suo punto di vista molto rappresentato, quindi non è che lo contrasto. Lei dice esiste un ordine naturale dell'accoppiamento, che è quello che ho fatto io per i miei figli, un ordine naturale che però non può essere stabilito in un modo. Non è il suo punto di vista. Gian Ettore Gassani, siamo ancora agli accoppiamenti naturali. Ma a parte questo, voglio dire, il problema è che stiamo parlando di ciò che non esiste. Quindi quando una coppia omosessuali va a scuola per scrivere il bambino, ci sarà il genitore uno, basta, uno, o il padre o la madre. Quindi perché deve esistere la casella genitore 2 o altro genitore? Che significa? Cioè nel caso di una vedova mica c'è lo zio o il parente o il nuovo fidanzato della madre? No, assolutamente no, mi pare che si stia creando un cortocircuito che non fa bene neanche alle battaglie che io stesso sto facendo per le coppie di fatto, e tu lo sai molto bene. Sì, sì. Si sta creando una situazione di antipatia verso queste battaglie, proprio perché si sbaglia anche il canale di comunicazione. Poi mi sembra, se gli interlocutori sono intelligenti, come sei te, come Alberto che ha chiamato, sembra quasi che i problemi non esistano. Il problema è nel mantenimento di posizioni ideologiche. La mamma che si arrabbia, che dice quello che fanno nella camera da letto. Ci sta la mamma che dice io sono la mamma e non voglio genitori, ci sta anche questo, cioè, e bisogna rispettare anche queste sensibilità. Sì, ma infatti io metterei anche la casella mamma al 100%. Fermo un attimo. Diciamo che se andiamo è vero che esistono le famiglie scobaleno, tanto di cappello, esistono anche i padri ipotetici, i padri presunti, i padri che non sono manco tanto sicuri. Farei una casella anche per questo, forse papà. Ma non lo so, io direi di dire la verità nelle caselle. Cioè un figlio che non somiglia al padre, non può dire forse papà, cioè vogliamo metterla tutta per paradosso. Ma direi che non bisogna neanche meravigliarsi se una mamma dice sono la mamma. Insomma, questo è un paese in cui francamente cominciamo a essere razzisti verso quelle che sono state un po'. Fermo un attimo, scusa, c'è Maria Teresa che mi interessa. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno, una mamma. Lei mamma, allora, in che percentuale? 100% per 3 figli, vabbè, quindi figli. Va bene. E non ci interessa la camera da letto? No, se no tutti sono... Io avrei firmato senza neanche accorgermi della dicitura genitore 1 o genitore 2. Probabilmente avrò fatto io senza rendermene conto e sbattendomi altamente di cosa ci sia scritto nel modulo. Quindi lei diciamo, perché credo che non sia da lì che mi sento mamma, e in quale percentuale. Non è un modulo che certifica l'integrità della posizione materna, ma qua è diverso però. Esattamente. È impugnare ideologicamente il fatto che non possano esistere altre realtà rispetto alla propria, oppure avere il giusto e lecito diritto e pretesa di avere rappresentante anche la propria posizione. Quindi bisogna elaborare dei moduli più articolati, non così semplici. Non basta fare un modulo in cui o è bianco e nero, se dobbiamo decidere che è nero scompaia il bianco. Alberto Bignardi, sì prego Maria Teresa, concludere. Credo inoltre che sia molto più semplice genitore 1 o genitore 2, utilizzabile anche ad esempio per un bambino che ha solo un genitore perché è orfano. Non crea l'imbarazzo di lasciare vuota la casella dove c'è scritta madre oppure quella dove c'è scritta padre. O anche un figlio di una ragazza madre che non ha necessità di dover specificare che il padre non esista. Anche questo, ecco. Basterebbe un genitore che fa le veci. Sì, però in certe responsabilità occorre la firma di entrambi i genitori, no Gian Ettore? È importante sì, che se devono andare in gita scolastica entrambi i genitori devono dire che gli sta bene. Se la coppia è separata l'altro potrebbe essere motivo di chissà quale contenzioso, tu lo sai bene. Sì, abbiamo introdotto delle leggi nel nostro paese, la legge 54 del 2006 che ha introdotto l'affidamento condiviso anche conformemente alle convenzioni internazionali. I genitori si è sempre anche dopo la disgregazione familiare, per cui è evidente che ci vuole la doppia firma quando si tratta di genitori adottivi o biologici, non è importante. Quando si è da soli, quando si è vedovi, quando l'altro non c'è, si esercita la responsabilità genitoriale da soli, per cui il compagno, la compagna non hanno alcuna rilevanza, che poi lo venga a sapere il direttore scolastico, questa è una informazione che può essere sicuramente utile, ma ripeto, parliamo di diritto, poi parliamo, ripeto, di modi di comunicare con la gente, dobbiamo pensare che un modulo scolastico deve contenere la realtà delle cose, non dobbiamo nasconderci, allora forse nessuno si scontenterà, non ci saranno bisogno di battaglie nei social network. Ecco, se il tema potesse essere esposto sempre con questa chiarezza e questa mancanza totale di pregiudizio, forse non sarebbe manco bisogno di mamme che protestano in rete. A domani.